Da La pergamena della seduzione di Gioconda Belli, la storia di Giovanna I di Castiglia, detta la pazza, parte prima. Sono Giovanna, Toledo, il 6 novembre del 1479, il giorno della mia nascita. Beatrice Galindo, una donna dai tratti castigliani, colorito bruno, capelli neri pettinati in una crocchia sulla nuca, occhi piccoli, vivaci, umidi. Assiste al parto della sua amica, la regina Isabella, mia madre. Finalmente la mia testa si affaccia e, tra gemiti di sollievo e un silenzio solenne, le levatrici mi strappano dal vortice della mia origine e mi mostrano il confuso mondo al quale accedo. Percepisco le mani magre, indurite dal lavoro. Non c'è più il velo che mi proteggeva. La mia pelle nuda avverte la trama dei vestiti con cui mi coprono. Sento che mi trasportano. Da un paio di braccia all'altro. Sono abbandonata, in pericolo. Senza più l'acqua che mi isola e mi nutre. Il mondo è assordante e la sua luce non permette il raccoglimento. Oh, voglio ritornare all'umida e calda profondità del ventre materno. Voglio piangere per l'angoscia e per la fame. Mi avvicinano a qualcosa. In seguito lo riconoscerò come il seno della mia nutrice, Maria di Santi Esteban. Non sarà mia madre quella che mi alimenterà. A lei tocca alimentare il regno e io non sono che la terza dei suoi figli. Voglio che mia figlia impari il latino, Beatrice, sento dire a mia madre. Voglio che goda i piaceri dell'intelletto, dato che non sarà mai regina, che sia una principessa saggia. Sì, Isabella, riposa. Diventerà bellissima, dice Beatrice. Guarda che lineamenti fini ha. È una trastamara. La chiamerò Giovanna. A Giovanni ho dato il nome di Giovanni Battista, lei la affiderò a Giovanni Evangelista. Ferdinando, mio padre, entrerà più tardi per salutare mia madre e per conoscermi. Mi guarderà senza interesse, non sono il figlio che aspettava, e la freddezza del suo sguardo si spande per il mio piccolo corpo avvolto nella lana, togliendomi dal sogno e facendomi gridare. Mia madre mi consola, in presenza di mio padre mi culla per la prima volta. Riconosco il suo calore e il battito del suo cuore. Riconosco l'essere che ho abitato, il castello di cui ero stata una stanza segreta. La sua vicinanza mi fa sentire di nuovo intera, ricomposta. Il mio naso si attacca al suo petto, cerca quell'odore familiare, quella parte di me da cui mi hanno separata. Mentre sono tra le sue braccia, lo sguardo di mio padre si stempera e non ho più freddo. Primi anni. Siamo una famiglia nomade. I miei genitori sono reali in guerra e la corte si sposta di castello in castello. Prima hanno dovuto combattere contro i seguaci di Giovanna la Beltraneja nella guerra di successione. Poi, dopo la vittoria del 1485, hanno consolidato il loro potere proponendosi di portare a termine la Reconquista di Granada, ultimo bastione dei Mori. La corte si stabilisce dove le necessità militari lo richiedono. È nata mia sorella Maria e la mia nutrice ora allatta lei. Di me si prende cura una governante chiamata Teresa di Manrique. Mi rimane appena il tempo per giocare con i molti impegni che mia madre ha deciso perché i suoi figli crescano come degni principi e principesse di Castiglia e di Aragona. Imparo a suonare il clavicordo, a ballare, a tessere. Se sto buona, Teresa mi porta in cucina. E mi prepara dolci coperti di zucchero rosato. Se rido a bocca aperta mi picchiano, perché l'esperienza insegna che il castigo fisico è medicina per la stoltezza delle bambine e il dolore è salutare per la disciplina dei corpi. Ho cominciato la mia istruzione con il maestro e dottore domenicano Andrés de la Miranda, che ha lasciato il suo monastero di Burgos per fare il nostro tutore. Durante le lezioni di latino, la mia sorellina Maria si addormenta sul tavolo. Io non posso dormire perché padre Andrés è severo e mi punisce descrivendomi le pene dell'inferno. Mi ha bruciato con un tizzone la punta dell'anulare per darmi l'idea della pena che subirò se non imparo a essere una buona cristiana. Ho gridato e scalciato, ma mia madre, che è arrivata alla mia chiamata, ha scambiato un sorriso con il frate e ha approvato i suoi metodi barbari. Don Andrés parla degli infedeli che pullulano nei nostri regni e adorano altri dei. Beatrice Galindo risponde esaltando la bontà della convivenza con ebrei e mori. Di nascosto mi fa leggere poesie e storie d'amore cortese che io divoro nelle sere in cui i miei genitori si divertono circondati dalla corte. Sogno di diventare adulta. e di non dover più vivere con guerre, persecuzioni e paure. Leggevo le confessioni della curanderas, le donne che adoravano i conigli e poi ne aprivano il ventre per leggere il futuro. Quei mondi oscuri non mi sembravano più tenebrosi dei corridoi dei nostri palazzi, attraversati giorno e notte da religiosi sussurranti, i cui occhi, anche quando ero piccola, mi guardavano di traverso, con servile amabilità e mal dissimulata concupiscenza. Avevo vissuto la mia infanzia con poca gioia, accanto a uomini che avevano il compito di badare a me e a cui era stata affidata la mia educazione, forse perché il rifiuto di mio padre li aveva contagiati e noi tre principesse, che eravamo nate dopo Giovanni, gli ricordavamo le velleità del ventre, capace soltanto di produrre femmine parto dopo parto. Maria, Caterina e io forse eravamo per mio padre la testimonianza che la sua virilità aveva dato alla Castiglia e all'Aragona soltanto un erede maschio, quel mio debole e fiacco fratello Giovanni che io superavo come amazzone e come arciere. La mia freccia non si staccava mai dalla balestra senza colpire il bersaglio. Se gli fosse capitato quello che era capitato a me, mentre attraversavamo il Tago in viaggio per Toledo, e alla mia mula era rimancata la terra sotto i piedi ed era sprofondata nella corrente, ora non avremmo più avuto un principe ereditario. Io invece non avevo perso la testa e non ero rimasta immobile quando l'acqua fredda mi aveva tolto il respiro e aveva reso il mio abito di velluto pesante come un'armatura. Avevo afferrato la mula per le orecchie e l'avevo fatta emergere. Poi mi c'ero aggrappata, affondando le gambe nei suoi fianchi perché nuotasse fino alla riva. Il mio corpo tremava, ma il mio cuore era tranquillo e trionfante, soprattutto dopo che avevo visto i volti delle dame, dei cavalieri e dei servi, inebetiti e pallidi, guardarmi increduli, sollevati e pieni di ammirazione di fronte alla mia prodezza. Avevo 10 anni, ma ero figlia di mia madre, che tante volte avevo visto dalla finestra della mia camera uscire in piena notte a cavallo, alla testa dei suoi soldati per combattere il nemico. Per ricompensarmi, non appena giunti a palazzo, mi avevano condotto alla presenza dei miei genitori. Mio padre mi aveva abbracciato e tirato con affetto la treccia che mi pendeva sulle spalle. Credo di aver scoperto in quel momento ciò che di lui viveva in me, così come lui aveva visto nei miei occhi il suo riflesso. Era orgoglioso di me. Mia madre mi aveva stretta a sé, non mi era dispiaciuto l'odore rancido che emanava in seguito alla strana promessa che aveva fatto di non lavarsi fino a quando non avesse riconquistato Granada. Giovanni e Isabella li avevano educati per essere sovrani. Non era così per gli altri. Soltanto il primo e il secondogenito erano ammessi alla presenza dei nostri genitori e li vedevano spesso. Io mi applicavo allo studio del latino e delle lingue romanze e imparavo a suonare con bravura il clavicordo, sperando che la notizia dei miei progressi li portasse a darmi più attenzione e a farmi chiamare perché leggessi per loro a voce alta o animassi le loro feste notturne. Avevo circa 12 anni quando la latina mi regalò per il mio compleanno un libro che mi rapì letteralmente, Visione dilettevole della filosofia e delle arti liberali. Prima di leggerlo non avevo mai pensato quanto fosse straordinario per la nostra specie essere arrivata a dedurre l'esistenza dell'anima, delle realtà esterne e interne. Non mi ero mai resa conto di quanto fosse insaziabile e tenace la sete di sapere delle nostre menti. Né mi ero mai interrogata sull'origine della propensione alle arti e sulla necessità della bellezza, e non avevo neppure valutato che come donna avrei potuto avere un ruolo più attivo in casa mia. E poiché non sarei stata regina, mi proposi di lasciare un segno, almeno di tenere le redini del mio destino con maggiore coerenza, compiacere più la mia intelligenza che la mia vanità. Sì, ero vanitosa. Perché non ammetterlo? Da quando mia madre mi aveva autorizzata a cambiare il nero dei miei abiti con il porpora, anche se quei tessuti costavano il doppio, il mio più grande svago era quello di ordinare vestiti nuovi. Lo specchio non mi ingannava quando mi mostrava più bella delle mie sorelle. Ero il ritratto vivente della mia nonna aragonese. Era tale la somiglianza che mia madre, scherzando, mi chiamava suocera. Ma dicevano anche che assomigliavo a Isabella del Portogallo, la nonna materna, che viveva ad Arevalo, in un castello fortificato vicino al fiume Adage. Mi lusingava sentire che avevo ereditato la sua bellezza e il castano chiaro dei capelli, tanto diverso dal biondo di mia madre e di mia sorella maggiore. Ma non mi piaceva che mi paragonassero a lei perché sentivo le dame bisbigliare della sua follia. Raccontavano che era impazzita per il rimorso di aver forzato il marito, Giovanni I, a giustiziare il suo fedele ma perfido consigliere Don Alvaro de Luna. Sembra che mio nonno non si perdonò mai di averle obbedito. Morì 13 mesi dopo, prostrato. Odiava la sua vita di re. Ripeté fino all'ultimo: meglio sarebbe stato per lui essere figlio di un contadino. Dicevano che la mia povera nonna, avvilita, vedesse in continuazione il fantasma di Don Alvaro e dal fiume che scorreva sotto la sua finestra sentisse salire il nome del morto sussurrato perennemente dalle acque. Mia madre, però, conservava ricordi molto poetici della sua infanzia ad Arevalo. I suoi occhi si inumidivano quando parlava dell'indipendenza nella quale era cresciuta, della libertà di cavalcare in lungo e in largo per le sue terre, fino a pensare che la dolcezza del paesaggio castigliano era l'aria stessa che la sua anima respirava. Quando era inquieta, soleva dire, le bastava chiudere gli occhi e immaginare le pianure, le colline di Castiglia, i sentieri lungo il fiume per recuperare l'equilibrio interiore. Credo che dalla sua esperienza avesse dedotto che noi figli non avremmo patito la sua assenza, anzi avremmo imparato a bastare a noi stessi e a non dipendere dagli affetti familiari. La ricetta avrà funzionato con lei, ma a me la sua assenza lasciava un grande vuoto. Un cuore mutilato. A mano che crescevo, la mancanza d'affetto si trasformava in dolore fisico. Sognavo carezze, gesti affettuosi. Per comprendere la freddezza di mia madre, bisogna conoscere la storia della sua difficile ascesa al trono. Non mancavano mai di ripetermi quegli eventi nelle conversazioni di corte, ma soltanto verso l'adolescenza riuscii a mettere insieme tutte le isole disperse della mia conoscenza e a ricostruire il passato che aveva fatto di mia madre la formidabile donna la cui presenza desideravo con ansia e che al tempo stesso mi ispirava il silenzio e il raccoglimento che altri sentivano nei templi di fronte alla vicinanza di Dio. Mia madre aveva provato un grande affetto per il suo fratellastro Enrico, figlio del primo matrimonio del re Giovanni I, suo padre. Quando Giovanni morì, la corona passò a Enrico, che divenne re con il nome di Enrico IV. Questo fratello maggiore, alto e biondo, e che si faceva beffe del protocollo di corte, ricevendo i nobili su cuscini stesi al suolo e vestito da moro, convinse mia nonna dell'opportunità che mia madre e il fratello di lei, Alfonso, andassero a vivere presso la corte di Valladolid e abbandonassero l'isolamento di Arevalo. La nonna non avrebbe voluto lasciarli andare, ma non poté opporsi. Dopo la partenza dei suoi figli fu vinta dalla follia. Mia madre aveva 10 anni e Alfonso 9. Parlavano portoghese più che castigliano. In quel periodo nacque la principessa Giovanna, figlia di Enrico e di Giovanna del Portogallo. Mia madre e mio zio assistettero al battesimo ed erano presenti quando il re la proclamò futura erede del regno di Castiglia. Come poteva immaginare mia madre che un giorno sarebbe stata in guerra contro quella creatura per la successione al trono? La vita licenziosa di Enrico, il fatto che gli piacessero i ragazzi, le sue fallimentari avventure con le dame di corte contribuirono alle voci che gli valsero l'appellativo di impotente. Dato che gli impotenti non possono generare, e poiché il prestante cavaliere Beltrán de la Cueva era non solo il favorito di Enrico, che lo aveva nominato maggiordomo della casa reale e grande di Castiglia, ma anche intimo della regina, la nobiltà cominciò a chiamare la piccola principessa Giovanna la Beltraneja. Nonostante ciò, il re, invece di allontanare Don Beltrán, gli concesse sempre più titoli nobiliari. Lo nominò conte di Ledesma, combinò il suo matrimonio con una nipote del cardinale Mendoza e lo nominò addirittura rettore dell'ordine di Santiago, che possedeva, dopo quelle della corona, la maggior parte delle terre del regno di Castiglia. Tutto ciò risultò inaccettabile ai nobili, soprattutto al potente arcivescovo di Toledo, Alfonso de Carrillo. Carrillo, che comandava un potente esercito, era stato tutore e protettore di mia madre e di suo fratello da che erano giunti a corte. Gli eccessi di Enrico, i dubbi sulla legittimità di sua figlia, spinsero lui e altri nobili a sostenere che la corona di Castiglia doveva essere assegnata a mio zio Alfonso. Il presunto erede morì dopo aver mangiato una trota, forse avvelenata, perché chi muore di questo? La designata a occupare il trono fu quindi mia madre. In seguito a pressioni, sommosse e assedi militari, il re accettò che mia madre gli succedesse e a Toros, dechisando, firmò un trattato che ratificava questa decisione. Più di una volta Enrico rinnegò questo impegno e per anni mia madre visse con il fiato sospeso. Cercarono di sposarla al re del Portogallo e a un vecchio gentiluomo, poi Carrillo, per ottenere l'appoggio del regno di Aragona nella lotta per la successione, propose il matrimonio con mio padre Ferdinando. I miei genitori si sposarono a Medina del Campo, con una cerimonia preparata segretamente alla quale mio padre giunse in incognita, travestito da mulattiere. Soltanto dopo le nozze solenni, ai 6 giorni di festa ufficiali, mandarono un emissario a informare Enrico, il quale si infuriò tanto che tornò a proclamare la Beltraneja suo erede. Si dice che tra i miei genitori nacque l'amore nel momento stesso in cui si conobbero. Entrambi erano giovani, belli, e suppongo che la segretezza delle nozze, la consapevolezza della parte di primo piano che avrebbero giocato per l'unificazione della Castiglia e dell'Aragona, avessero alimentato la reciproca attrazione. Sapevano di essere al centro di molte aspettative e tensioni, niente di meglio della cospirazione per sollecitare il sangue e la passione. Per dimostrare che il matrimonio era stato consumato e che l'impotenza della corona castigliana apparteneva al passato, la notte delle nozze mio padre uscì dalla camera coniugale a mostrare le lenzuola macchiate del sangue virginale di mia madre. Molti episodi di quei giorni, raccontati dal mio tutore Andrés de la Miranda e da Beatrice Galindo, mi aiutarono a costruire l'immagine di mia madre a quel crocevia della vita nel quale si era giocata il tutto per tutto, assumendosi, in base a premesse non molto trasparenti, a mio giudizio, il suo diritto alla successione alla corona di Castiglia. Ma quel che meglio rivela il suo temperamento è come, il giorno seguente alla morte di Enrico, che morì senza aver fatto testamento, si fece incoronare regina di fatto a Segovia il 13 dicembre del 1474, in virtù del Trattato di Toros de Quisando, senza aspettare l'arrivo di mio padre. Nei patti matrimoniali firmati alla presenza di Carrillo e approvati dal re Giovanni de Navarra, mio nonno paterno, lui aveva accettato il ruolo di principe consorte, ma il fatto che Isabella glielo sottolineasse in modo tanto evidente aveva ferito il suo orgoglio. Lei però fece in modo di guarirlo in fretta. Quando arrivò a Segovia il 2 gennaio, mio padre fu accolto fuori dalla città dal cardinale Mendoza e dall'arcivescovo Carrillo sotto un baldacchino reale del più fine broccato. I suoi vestiti a lutto vennero sostituiti da una cappa tessuta d'oro e bordata di ermellino, e mentre avanzava in un mare di stendardi, fu travolto dal giubilo della gente che usciva ad acclamarlo tra la musica che inondava le strade. I giullari più bravi cantavano agli angoli delle vie, accompagnati da giocolieri che lanciavano in aria palline e fazzoletti, e da uomini che sputavano fuoco dalla bocca o tenevano in bilico sul capo i più svariati oggetti. Fu un'accoglienza trionfale che si prolungò fino al tramonto, quando attraversò le porte di San Martino tra nobili uomini che si inginocchiavano al suo passaggio e alzavano torce accese. Mia madre attese che la processione entrasse nella piazza per mostrarsi dall'alto della scalinata dell'Alcazar come un'apparizione di fuoco e d'oro, adorna della tiara e con una collana di rubini al collo. Con la gioventù e la bellezza dei suoi 23 anni, scese tra le ovazioni dei suoi sudditi per riunirsi al marito e accompagnarlo alla cattedrale, dove lui giurò alleanza alla città e promise di difendere e di far rispettare le leggi di Castiglia. Pochi giorni dopo, i miei genitori scelsero l'emblema e il motto reale: tanto monta, monta tanto. Letteralmente, tanto importa, importa tanto. Ossia, l'importanza di Isabella era la stessa di Ferdinando.